Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, quasi 8 minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. Come sempre la giornata è dedicata agli effetti sull'economia del coronavirus. Chiaramente parleremo a lungo del decreto molto atteso che è arrivato del governo. Le cose più importanti mi sembrano, le anticipo già, da un lato come ha chiarito il ministro Gualtieri, questi sono i provvedimenti, i più o meno 20 miliardi, 25 miliardi in tutto, i provvedimenti per quello che riguarda il mese di marzo. Poi vi sarà un nuovo decreto su aprile e chiaramente alcune cose vanno rifinanziate, penso ai 600 euro di bonus per i lavoratori autonomi o le partite IVA, penso al voucher babysitter oppure congedo parentale, insomma tutte queste misure vanno rifinanziate. L'altra cosa importante è il chiarimento sulla cassa integrazione in deroga, che varrà per tutti, cioè anche per chi ha un dipendente. Era circolata ieri l'ipotesi che valesse solo dai 5 dipendenti in su, che avrebbe penalizzato, conoscendo il tessuto di imprese dell'Italia, centinaia di migliaia di imprese, di piccole imprese a 2-3 dipendenti, varrà per tutti. E ne parleremo lungamente nella seconda ora del programma. Per quello che riguarda i mercati, allora insomma, la giornata, in realtà i mercati stanno un po' migliorando, nel senso che Milano perde, si fa per dire, solo il 4,50%, Parigi identica, meno 4,30%, Francoforte meno 3,30%, Londra meno 4,30%. Mentre è pesante, molto pesante il Dow Jones, meno 7,15%, nonostante l'intervento della Fed. L'America, e qui vengo adesso a un commento, finisco la borsa e poi dico, diciamo, il resto. Per quello che riguarda la borsa italiana, c'è Ferragamo che recupera molto, il 6,60%, Snam il 5,17%, Juventus il 3,5%, Prismin il 2,14%, Fineco l'1,60%, Recordati più 0,15%. Sono pesanti oggi che cosa? I titoli automobilistici. Renault ha annunciato che chiuderà gli stabilimenti non solo nel resto d'Europa, anche in Francia, Peugeot, Citroën, idem, e su Fiat Chrysler adesso racconteremo, però insomma tutto il settore auto sta andando malissimo. Ricordo che le borse oggi erano arrivate a perdere fino all'11%, per quello che dico 4,7% è già è quasi un recupero. Dunque, oltre a questo, lo spread è scritto da 250, era scritto da 270. Per quello che riguarda Fiat è arrivata a perdere appunto oltre il 15%, adesso perde il 13%. C'è la chiusura degli stabilimenti e c'è anche la mancanza di componentistica dai fornitori. Unicredit, le banche sono messe male oggi. Unicredit perde l'11,5%, Mediobanca al 9,5%, UBI l'8,40%, Banca Generali l'8,30%, Intesa al 7,70%, Leonardo perde l'11,20%, Telecom il 9,16%, Exor, la controllante del gruppo Fiat, perde l'8%, STMicroelectronics il 6,70%, Moncler il 6,5%. L'euro su dollaro a quota 1,11. La Gran Bretagna, volete sapere, perde il 4,40%. Guardate, adesso non è che posso occuparmi della Gran Bretagna, ritengo quantomeno così bizzarra la proposta di Johnson, vedremo se riusciranno a reggerla. Quello che noto oggi è che, se prendete la stampa internazionale, dalle Figaro e il Paese, sono tutti a citare il metodo italiano. Adotteremo il metodo italiano. La Francia questa sera alle 20 c'è una conferenza di Macron che probabilmente, da quello che abbiamo capito, annuncerà un ulteriore giro di vita. A Parigi hanno già chiuso i parchi, però dopo quello che è successo, dopo il flop anche delle elezioni amministrative, ma le immagini di molti francesi, come abbiamo fatto noi, non questo fine settimana, quello precedente, niente di nuovo in giro per i parchi o a fare, diciamo, rassembramenti. è molto molto probabile che questa sera Macron annuncerà le misure di contenimento identiche a quelle italiane, cioè non si può uscire di casa se non per le tre fattispecie previste: motivi di lavoro inderogabili, motivi sanitari o necessità, però poi così declinata. No, lo dico perché dopo aver preso per 10 giorni almeno, dal 25 al 5 marzo, forse fino al 7, il fango di tutto il mondo, gli italiani, l'Italia che è il nuovo, gli italiani, forse c'è quel deficiente che metteremo in classifica del medico inglese, non quello che ha parlato con Boris Johnson, un altro personaggio che ha detto ma gli italiani ne approfitteranno per fare la siesta. Ecco, venga a vedere come si fa la siesta da noi, nei reparti di rianimazione, visto che fa anche il medico. Però quello che noto adesso, è una magra consolazione, ci mancherebbe, è che tutti i paesi europei stanno citando il metodo all'italiana in senso positivo, cioè all'italiana non come denigrativo, ma come dire faremo anche noi quello che ha fatto l'Italia, implicitamente riconoscendo che l'Italia è stata apripista ed è anche modello, perché quando tu parli di modello italiano, il modello di solito è un'eccezione anche positiva. E quindi adesso un attimo, c'è una notizia d'agenzia: la Federal Reserve ha annunciato un'asta di pronti controtemi da 500 miliardi di dollari per un giorno. Un'asta non in calendario, vuole offrire al mercato la liquidità di cui ha bisogno, ho capito. Però devo dire appunto che adesso il metodo italiano, il modello italiano sta diventando un modello che tutti stanno seguendo, anche perché la cronaca, sapete che ogni in apertura mancano i dati francesi di oggi, sono ancora quelli di ieri, ma se tu prendi i dati spagnoli, la Spagna con 9.400 casi e 335 decessi è esattamente come l'Italia tra lunedì 9 marzo e martedì 10 marzo, quindi siamo a una settimana esatta, anche forse un po' di meno. Noi eravamo 9.100 contagiati, la Spagna è già arrivata a 9.400 con un grosso problema soprattutto nella zona di Madrid, perché lì si concentrano metà dei contagiati di tutta la Spagna, e quindi la Spagna viaggia a meno di una settimana di ritardo. La Francia, la Germania, scusatemi, che ha annunciato oggi 6.670 contagiati, è come eravamo noi tra sabato e domenica, perché sabato eravamo 5.800, domenica 7.300, e quindi anche la Germania ha una settimana scarsa di vantaggio. La Francia, che ieri ne aveva già 5.300, oggi sarà ampiamente sopra i 6.000, anche lei andrà come noi domenica 8 marzo. La famosa domenica, il famoso sabato e domenica del decreto, diciamo, chiudi Italia e delle persone a fare la ressa, gli aperitivi, piuttosto che tutti in coda in montagna. Ecco, questo che cosa vuol dire? Vuol dire che intanto si sta riducendo i 10 giorni di vantaggio che avevano, e che comunque l'andamento di Francia, Spagna e Germania è identico a quello italiano, hanno una settimana di vantaggio, ma è chiaro, e anche loro infatti, come facemmo noi una settimana fa, cioè era il sabato 7 marzo, chi se lo dimentica, alle ore 20:30 le prime iscrizioni sul decreto, che estendeva a tutta l'Italia le regole di contenimento, era esattamente, e infatti loro si apprestano adesso a fare quello che noi abbiamo fatto una settimana fa. A dimostrazione che il modello italiano è l'unico modello che si può seguire in questo momento. Qualcuno mi dice, però lei esaltava la sanità lombardo-veneta ed emiliana, aggiungo anch'io, sì certo, ma vogliamo dire una cosa, che nonostante tutte le difficoltà, nonostante noi siamo stati i primi in Europa, la Francia, la Spagna e la Germania adesso prendono il decreto italiano di sabato scorso, guardate cosa ha fatto la Spagna l'altro ieri, lo prendono intero, lo copiano punto per punto, tutti a casa, tranne fuori. È facile, tra virgolette, farlo adesso. Possiamo anche plaudere all'Italia per quello che riguarda il fatto che con tutte le incertezze ci mancherebbe la confusione anche all'inizio in alcuni casi, ma noi abbiamo fatto un'operazione che adesso gli altri stanno copiando riga per riga, Il decreto di mercoledì 11 marzo, no, io mi sto riferendo non al decreto quello che praticamente obbliga a tutti a stare in casa, mi sto riferendo al decreto del 7, di sabato 7, quando sostanzialmente si disse nessuno si può spostare, e ci fu la fuga l'Italia diventa zona arancione, che è esattamente quello che stanno facendo gli altri. Ora, possiamo essere orgogliosi anche del modello ospedaliero e sanitario tutto pubblico, non come in Gran Bretagna, non come negli Stati Uniti, e che sta reggendo la Lombardia, che è in una situazione critica, per carità, ma voglio dire, ha affrontato una cosa mai vista prima. Cioè, i casi di tutta la Francia ancora adesso, di tutta la Spagna, sono quelli che ha da sola la Lombardia, ma ce l'ha da qualche giorno. Quindi attenzione a dire il nostro modello non sta funzionando. Sta funzionando anche la centralizzazione, poi faremo un ragionamento fra qualche settimana su tutti i meccanismi che sono saltati. Il federalismo è praticamente ormai un morto che cammina, perché nel momento in cui ti accorgi che quando hai un'emergenza la cosa più importante è lo Stato centrale e avere un paese che il federalismo lo lasci dall'altra parte. Cioè, il federalismo va bene se è una situazione normale, se tu non avessi la possibilità di portare i malati in terapia intensiva in altre regioni appoggiati al resto del paese, avere la protezione civile, non tieni. Così come anche l'idea di un'Europa, meno Europa, ma siamo qua tutti a dire che ci bisogna di più Europa, più Eurobond, o meglio di lanciare gli Eurobond, non di che ognuno se ne stia da solo. Ma riescono a immaginare i geni della lira, del ritorno alla lira? Dove sarebbe la lira in questo momento se avessimo la lira, con quello che ci è successo nelle ultime 3 settimane, soprattutto nel periodo in cui eravamo solo noi contagiati? Dove saremmo finiti con la lira? Quanto mancava solo importare inflazione, pagare la bottiglietta di Coca-Cola o di altra roba il triplo, il quadruplo del prezzo? Ma di cosa state parlando? Allora, ancora vedo molti messaggi. Non ho voglia di polemizzare con nessuno. Guardatevi i dati degli altri. L'Australia oggi ha chiuso come borsa. Dice che se ne frega dell'Australia, no, è che nessun paese è immune. La borsa di Sydney ha fatto il peggior crollo dal 1987, meno 10%. Hong Kong pesante, stamattina Shanghai pesante, Seul pesante, diciamo di non pesante c'è poco in questi giorni. Gli Stati Uniti dicono, lo ha detto il chirurgo generale americano, cioè il capo esecutivo del United States Public Health Services, ha detto: noi siamo nel punto in cui era l'Italia 2 settimane fa, ed ecco perché tutte guardano a quello che ha fatto l'Italia, che da Calimero è forse diventata modello, non anche virtuoso, cioè quello che devi fare, punto e basta. Allora, qualcuno mi scrive: gli altri paesi stanno bruciando il vantaggio che avevano. È certo che lo stanno bruciando, però io cosa ci posso fare? Se tutti pensavano all'inizio che ci fossero stati anche dei problemi in Italia, dei rallentamenti in Italia, certo che all'inizio è tutto difficile quando sei il primo, ma fateci l'applauso dall'estero, altro che... Vedo che la Francia... Guardate dove si è messo, in che cul-de-sac, è proprio il caso di usare questo termine, si è messo Macron con le elezioni amministrative. Adesso non sanno più quando fare il secondo turno. Sembrano un po' la UEFA, no? Che fino a una settimana fa faceva giocare mezze partite sì, mezze no, e poi si sono arresi pure loro. Casomai più grave che gli altri paesi non abbiano capito subito che quello che stava capitando in Italia sarebbe arrivato anche a loro: le frontierine chiuse, semichiuse, i controlli agli italiani. Ma va là, adesso si va avanti così. Se noi saremo i primi, mi auguro, visto che abbiamo iniziato per i primi a scendere, a avere la curva discendente, saremo noi a dover chiudere le frontiere agli altri, perché se tu sei partito in ritardo dovremmo far noi così. Comunque, dai, per quello che riguarda i dati economici, la banca centrale cinese ha immesso 14 miliardi di dollari. La produzione industriale in Cina è crollata a gennaio e febbraio, meno 15%. È la prima volta in Cina che crolla la produzione industriale dagli anni 90, cioè era sempre cresciuta chiaramente, e il crollo è del meno 15%. Le vendite al dettaglio in Cina hanno fatto meno 20% nel periodo gennaio-febbraio. Lo dico perché questi dati potrebbero servire a noi per capire l'impatto, adesso mutatis mutandis, ma l'impatto anche sull'economia italiana. Il Fondo Monetario Internazionale è pronto a mobilitare 1.000 miliardi. A proposito, l'ex numero uno, l'attuale presidente della BCE, Christine Lagarde, poi ascolteremo, dove è finita? Perché Lagarde è sembrata molto, diamogli le brioche, non so, mi dispiace, però non la sento più parlare. Comunque, British Airways, un taglio del 75% dell'attività, EasyJet, le compagnie a rischio sopravvivenza, dice non solo EasyJet ma tutte le compagnie aeree, e prevede la messa a terra della maggior parte degli aerei. Ryanair non esclude lo stop completo dei voli, Austrian Airlines sospende tutti i voli, Lufthansa riduce ancora tutti i voli, praticamente parte solo un volo ogni 10. Air France KLM taglia del 70-90% l'offerta, e paradossalmente, lo dico con una battuta, chi ne esce meglio è Alitalia, perché in questo grandissimo casino e crollo dei fatturati delle compagnie aeree, l'Italia ha avuto il finanziamento e nessuno adesso andrà a rompere le scatole su finanziamenti pubblici. Renault chiude 4 impianti in Spagna e poi tutti gli impianti in Francia, la PSA appunto va verso lo stop per Peugeot Citroën in Francia, la Fiat Chrysler ha chiuso per 2 settimane tutte le sue fabbriche europee, quindi anche Melfi, Pomigliano, Cassino, le carrozzerie di Mirafiori, Grugliasco e Modena, le fabbriche in Serbia e in Polonia, e Macron stasera sta per annunciare decisioni difficili, parlerà stasera alla Nazione. Poco fa è arrivato il dato britannico, 1543 casi, e quindi la Gran Bretagna è esattamente come eravamo noi domenica 1 marzo, cioè un ritardo sostanzialmente di 2 settimane. Vediamo come andrà. La Baviera ha dichiarato lo stato di calamità. Il presidente, potentissimo presidente della Baviera, Markus Söder, visto che i bavaresi, la CDU bavarese è il grande elettore della CDU nazionale e della Merkel, ha detto: la situazione è molto seria, le conseguenze potrebbero essere peggiori di una crisi finanziaria. Poi ha detto che resteranno chiuse oltre le scuole tutti gli altri negozi, tranne appunto sul modello italiano, chi offre cibo al pubblico, che però è aperto dalle 6 fino alle 15, non possono entrare più di 30 persone e distanze di sicurezza. I ristoranti, scusatemi, e invece farmacie, banche, benzinai, drogherie, supermercati fino alle 22, tanto vedrete che andranno anche lì poi a fare come abbiamo fatto noi, chiuderanno poi anche i ristoranti. E quant'altro, l'inflazione rallenta oggi in Italia per i prezzi, consumo, il dato però di febbraio, più 0,3%, e poi adesso andiamo anche alla parte che riguarda le manovre. Ripeto, il grosso degli elementi della manovra lo faremo nella seconda ora del programma, adesso però qualche anticipazione, soprattutto l'impianto complessivo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Oh, questa è bellissima. Mi scrive un'ascoltatrice che una sua amica da Londra le ha scritto: I just wish we had your government. Vorrei che noi avessimo il vostro governo. Ma certo, perché c'è una parte della popolazione inglese che Boris il pazzo si sente ancora peggio dopo che lui ha detto bisogna fare l'immunità di gregge. Guarda le cavolate che ho sentito su sta roba, ma c'è qualcosa che sfugge forse agli inglesi. Il problema non sono solo i morti, adesso non voglio parlare del resto, però ammettendo anche un nuovo tipo di eugenetica per cui tutti quelli che hanno più di 80 anni li salutiamo direttamente adesso e gli diciamo mi dispiace papà, mamma, zio, nonna, quello che è, ciao, ma ammettendo anche che tu vada verso l'eugenetica, il problema che noi stiamo avendo non è solo il numero di morti, è il numero di ricoverati, perché i cinquantenni e i sessantenni si salvano perché non hanno magari complicazioni gravi come un ottantenne, ma perché sono intubati, perché hanno la mascherina, perché hanno la macchina per la ventilazione nel reparto di terapia intensiva e va a saturare gli ospedali, il che vuol dire che se tu poi hai un'appendicite perforante o hai un altro tipo, un incidente stradale, rischi di non trovare posto. Allora Johnson capisce che il problema non è quanti morti può tollerare la nazione, ma il non far collassare il servizio sanitario nazionale, che già quello inglese non è granché, su tutte le patologie, non solo su chi ha il coronavirus, perché se sono intasate le sale operatorie, se le sale operatorie si trasformano in centri di rianimazione, il problema ce l'hai uguale. E allora è quello che, non, che mi sfugge dell'obiettivo gregge. Cioè, devi spiegare agli inglesi che anche se dovessero avere un infarto, fra un po', non li possono ricoverare se tu non metti in campo delle, delle misure di protezione. Sì, tra l'altro, regina Elisabetta compresa, perché c'è anche un meme che gira su questo, no? Ma... Allora, i pilastri del decreto di oggi. Allora, potremmo dividerlo in tre aspetti. La parte che riguarda la sanità e la protezione civile. La seconda parte che riguarda il mondo del lavoro, quindi lavoratori, partite IVA, autonomi, imprese e quant'altro. E la parte che riguarda le famiglie. Complessivamente ha detto il Premier Conte, si attivano in questo modo 350 miliardi, qui va chiarita la cosa, e in campo sono stati messi 25 miliardi che valgono una manovra di PIL, valgono sostanzialmente un punto e mezzo di PIL. Dice Conte che vengono attivati flussi per avere complessivamente 350 miliardi. Dunque sono sostanzialmente divisi così i miliardi, ce ne sono 3,5 per sanità e protezione civile, ce ne sono altri 10 di sostegno ai lavoratori e quello che resta 10 per famiglie e lavoratori, e poi ci sono altre varie misure per la protezione civile sono, e la sanità, 3 miliardi e 300 milioni scusate, devo andare con ore, 3 miliardi e 300 milioni per cassa integrazione in deroga a tutti, e sono 3 miliardi e mezzo, poi 10 miliardi a sostegno dei lavoratori con ammortizzatori sociali estesi a tutti, anche gli autonomi, per l'assegno di 600 euro nel mese di marzo, slittamento delle scadenze fiscali di IVA e IRPEF, la data di oggi, poi 10 miliardi per aiutare famiglie e in questo caso attraverso le misure della sospensione della rata del mutuo sulla prima casa per chi non riceve lo stipendio, e poi ancora il bonus a 600 euro per il voucher babysitter e quant'altro che racconteremo tutto, e poi altri 3 miliardi a sanità e protezione civile. Sentiamo in sequenza Conte sulla manovra poderosa e Gualtieri chiarire che il decreto è per ora da 25 miliardi, ma ripeto, poi vi sarà un decreto d'aprile per rifinanziare il decreto di marzo. Sentiamo Conte e Gualtieri. Siamo stati i primi a mettere in campo qualcosa come 25 miliardi di euro di denaro fresco a beneficio del sistema economico italiano, a beneficio delle imprese, a beneficio delle famiglie, e attiviamo flussi, attenzione, per complessivi 350 miliardi. Questa è una manovra economica poderosa. Permettetemi di sottolinearlo, non abbiamo mai pensato e non dimostriamo di non pensare di poter combattere un'alluvione con gli stracci, con i secchi. Noi stiamo cercando di costruire pienamente partecipi degli sforzi che tutti gli italiani stanno facendo, una vera e propria diga per proteggere imprese, famiglie e lavoratori. Abbiamo approvato il decreto marzo, che è un decreto molto consistente, col quale diamo una prima risposta alla crisi coronavirus sul piano economico e non solo. Abbiamo deciso di utilizzare tutto il limite di indebitamento netto che ci è stato autorizzato dal Parlamento per questo primo intervento e che si articola su 5 assi. Il primo è quello di un finanziamento aggiuntivo molto significativo per il sistema sanitario nazionale, della protezione civile e degli altri soggetti pubblici che sono impegnati sul fronte dell'emergenza. Sono risorse per quasi 3 miliardi e mezzo che ci consentiranno di sostenere il lavoro eroico straordinario che il sistema sanitario e gli altri operatori pubblici stanno svolgendo. Vedo che molti ascoltatori sono affascinati da Boris il pazzo, da Boris Johnson, ma vedremo. Vedremo. Attenzione, perché Hong Kong ha chiuso tutti i cittadini britannici, comunque i britannici non possono volare neanche negli Stati Uniti, cioè è molto molto rischioso quello che sta facendo Boris Johnson, che rischia poi di isolare ulteriormente la Gran Bretagna, già le prese con la Brexit. Comunque ognuno in questo momento pensi anche ai casi suoi, devo occuparmi dell'Italia, e sono in questo disastro contento che almeno adesso veniamo utilizzati come modello da seguire nella fase prevenzionale. Vedrete che qualcuno mi dice: il mio sogno sarebbe che poi il vaccino venisse scoperto in Italia, anche il mio, magari in uno dei centri che stanno lavorando non stop su questo. Certo che sarebbe un sogno anche per me. Già sono orgoglioso che abbiamo fatto capire al resto d'Europa come ci si deve comportare, con grande fatica, grande casino, grande difficoltà interpretativa, tutto quello che volete. Però ripeto per la terza volta: è facile scrivere adesso il provvedimento dopo che l'ha fatto l'Italia. Guardate la Spagna, l'ha copiato riga per riga. Andiamo sul metro. Ah no, vorrei sentire una cosa su anzi, dopo il metro, una battuta che ha fatto ieri Gualtieri sulla Lagarde, che è scomparsa dopo quella scivolone che ha fatto, e anche però, diciamo, quello che dovrebbe fare la Banca Centrale Europea. Questa mattina l'ex membro italiano Lorenzo Benismaghi è intervenuto a 24 mattina. Però i voucher babysitter prevedono un'assunzione? Certo, guardate che forse non è chiaro, ma anche quando arriveranno i ristori per le aziende, quello che hanno perso, chi ha fatto nero, sto giro la prende in quel posto, eh? Cioè, se tu hai una babysitter in nero, non fai nessun voucher. E vale anche per, io spero, per i ristori. Anche perché, lasciatemelo dire, chi ha fatto nero consistente, non sto parlando di... ma chi, diciamo, è abituato a vivere allegramente col nero, in questo momento la sanità pubblica pagata con i soldi degli italiani che hanno versato le tasse sta salvando anche chi le tasse per vari motivi non ha voluto pagare. Non dico chi non potesse, ma parlo degli evasori che per mesi mi hanno scritto: ma io pagherò le tasse solo quando avrò i servizi necessari. Ma adesso, tanto se devi essere ricoverato in ventilazione, quel ventilatore lì l'abbiamo pagato noi, tutti quelli che le tasse le pagano. Facile fare discorsi, no? Alla Dick of Dog per stare in Inghilterra. Dai, meteo e pubblicità. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Focus Economia. You know, we will be there, as I said earlier on, using full flexibility, but we are not here to close spreads. This is not the function or the mission of the ECB. There are other tools for that, and there are other actors to actually deal with those issues. Questa è la mitica frase della Lagarde che ha creato un casino, un vero e proprio. Ma dove pensava di essere? Io ho visto che l'hanno attaccata per gli abiti Chanel. A me non me ne frega niente degli abiti Chanel. A me ne interessa quello che c'è dentro l'abito, che sia Chanel, Dolce Gabbana, roba italiana. Devo fare tutto l'elenco, sono Versace, Armani, se no faccio pubblicità scuola, tutta la moda italiana. Mi interessa quello che c'è dentro. Stai pazza. Comunque andiamo avanti. E infatti l'hanno de facto commissariata la von der Leyen, a dimostrazione che poi non è una nazionalità. Ha fatto un discorso bellissimo invece l'altro ieri: siamo tutti italiani. Ha fatto capire che la linea della Commissione Europea è quella, fine e basta. Allora, Gualtieri ieri ha detto a questo proposito: non si può cambiare la linea di Mario Draghi, whatever it takes, ma voilà, un altro italiano che tutti stanno adesso usando come modello. Qualcuno mi scrive: non capisco perché dovrei essere orgoglioso dell'Italia. Ma come non lo capisce? Ma tutti quelli che prima ci chiudevano un po' la frontierina, pensate agli austriaci, la Svizzera 20 minuti fa ha dichiarato l'emergenza, lo stato d'emergenza nazionale, ok? Tutti quelli che facevano gli strafighi, che la frontiera all'italiano e lo controlliamo, ah voi italiani forse avete fatto un po' di casino, mo vediamo, sono tutti a copiare il nostro decreto. Ma si può essere orgoglioso ogni tanto? Allora, Gualtieri sulla Lagarde. Noi abbiamo chiesto un chiarimento che c'è stato, infatti ha avuto un effetto anche sullo spread del giorno dopo, perché è ovvio che non si può cambiare rispetto alla linea di Mario Draghi, del whatever it takes. La Banca Centrale Europea, a disposizione di tutti i paesi europei, naturalmente dispone della possibilità di intervenire anche illimitatamente, e peraltro nel programma poi che è stato varato c'è anche la possibilità di realizzare interventi molto massicci a sostegno dei vari paesi. Quindi questo è un elemento importante che è bene che sia stato ribadito e che dovrà essere ribadito ulteriormente nei prossimi giorni. L'ex membro della Banca Centrale Europea Lorenzo Binismaghi, ospite questa mattina da Maria Latella e Simone Spezia, 24 mattina, su quello che dovrebbe fare la BCE e sulla frase della Lagarde. Anche gli articoli che escono stamattina rispetto alla tematica del pacchetto che la BCE ha adottato, in realtà l'ha presentato male anche nella sua sostanza, perché al di là di quella frase non molto felice, il pacchetto di decisione della BCE è sostanziale, perché comporta una forte riduzione degli interessi e tasso interesse per i prestiti alle piccole e medie aziende, praticamente il raddoppio del QE e una serie di altre decisioni che avranno un impatto sull'economia. Le cose cambiano ogni giorno, perché la dimensione globale di questa crisi sta emergendo sempre di più, la Federal Reserve ha tagliato i tassi di interesse a zero. E nonostante questo, i dati che vengono dall'Asia stamattina indicano un calo delle borse di nuovo. E dunque è un po' sono delle manovre che sembrano adeguate fino a un certo punto, ma poi esaminate dopo qualche giorno magari richiedano ulteriori interventi. Dunque è proprio un'evoluzione continua, però sicuramente la performance comunicativa della Lagarde non è stata molto efficace, diciamo. Allora, restiamo sul tema europeo, visto che poi tutta la seconda pagina, diciamo la seconda parte del programma, è dedicata alle misure del governo, perché le borse hanno chiuso, non sui minimi, però ragazzi, Milano si riavvicina quasi a 15.000 punti, meno 6,10%, avremmo parlato di crollo fino a due settimane fa. Adesso parliamo di borse che chiudono non sui minimi, perché è arrivati a perdere il 9%. Parigi meno 5,75, Francoforte meno 5,31, Londra meno 4, il Dow Jones sta perdendo l'8,21%, è l'America oggi il problema. Daniel Gross, direttore del Centro Studi Politici di Bruxelles, buonasera. Gross, buonasera a lei. Eccoci. Allora, abbiamo fatto sentire la Lagarde e vabbè, poi è intervenuto la von der Leyen e ha chiarito. A che punto è però la capacità di coordinamento europeo? Ora, dal punto di vista sanitario tutti stanno facendo, manca la Germania, ma adesso ci arriva anche lei, la Francia dovrebbe annunciarlo stasera, tutti vanno sul modello italiano, a questo punto virtuoso, aggiungo io, visto che ho visto pizzaioli, finti pizzaioli in Francia sputare sulla pizza, ho visto grafici della CNN con le frecce del virus che partivano dall'Italia, mo vedremo alla fine di tutta questa partita da dove partiranno le frecce. Però oggi l'ex Presidente della Commissione Europea Romano Prodi, ex Presidente del Consiglio, ha detto adesso servono gli Eurobond, cioè centinaia di miliardi. La differenza tra quello che stanno facendo adesso gli Stati, che stanno facendo deficit, e poi debiti prima o poi si ripagano, altra cosa è il cosiddetto piano Marshall, e cioè finanziamento non a fondo perduto, ma diciamo garantito dall'area euro, e quindi che non va direttamente nel debito di un paese, e che magari può essere indirizzato per alcune cose, penso alle opere infrastrutturali, in modo che poi lo Stato i soldi che risparmia da lì li usi per fare altro. Arriveremo mai agli Eurobond? Ma non penso, molti Stati altrimenti stanno pensando soprattutto a loro stessi, purtroppo in questa situazione. Ma sono d'accordo che l'Europa dovrebbe fare di più, e io direi non si tratterebbe tanto di fare più Eurobonds, ma di dare un contributo diretto a fondo perduto a quei paesi che soffrono di più di questa calamità. Per cui c'è un articolo già tra l'altro nel trattato che prevede questa possibilità. Io direi che questa è la strada che l'Unione Europea dovrebbe intraprendere, aiutare direttamente Italia, magari anche Spagna e Grecia, e Francia, e non fare più debito. La Grecia non ha grossi problemi, la Francia mi sembra che sia il prossimo, adesso vediamo la Germania, e quindi non fare più debito, aiuto diretto praticamente a fondo perduto, una cosa, cioè che vada a ripianare, non so, se noi iniziamo a dire appunto cassa integrazione come abbiamo fatto anche per chi è un dipendente, quelli sono soldi che però permettono al dipendente che in questo momento non sta lavorando di mantenere una parte del suo reddito. Lei immaginava, quando dice diretto, in questo modo? No, diretto naturalmente agli stati, che poi gli stati devono decidere loro stessi che cosa lo utilizzano, ma senz'altro io potrei anche immaginare subito un fondo per le spese sanitarie straordinarie a fondo perduto, di modo che non aumenti il deficit che già è troppo alto per l'Italia. Sì, perché questo è il problema che io mi pongo. Adesso siamo in piena emergenza, ma superata l'emergenza, mettiamo che ne riparleremo a settembre, poi tu hai fatto più debito e il debito va ripagato, no? Cioè, quindi non hai dato, sì, mi hai permesso di non pagare adesso, ma poi prima o poi questi soldi me li richiedi, come se la banca ti dicesse ti do maggior credito, però poi a settembre, ottobre inizi a rientrare su quello che ti ho concesso. Altra cosa se uno mi dà 1.000 euro a fondo perduto subito. Appunto, io direi per il momento dovremmo pensare soprattutto a qualche fondo perduto e soprattutto magari anche per le spese immediate, perché Eurobonds vuol dire più debito, magari è più debito per tutti, ma comunque più debito che va ripagato. Per cui questo per l'Italia o per i paesi più colpiti lo eviterei. Certo. Senta, Gross, che cosa l'ha sorpresa di più dell'Europa? Non parlo solo di Bruxelles in questo momento. Io prima dicevo, sai, all'inizio, in maniera anche abbastanza incomprensibile, Francia, Germania, soprattutto, hanno pensato che la cosa fosse molto italiana, che fosse un problema di chiudere. La Germania non ha chiuso nulla, per carità, ma anche i paesi più piccoli, chiudiamo le frontiere. È come se non si fosse capito che il modello che noi stavamo mettendo in piedi era da apripista anche per loro. Adesso vedremo il dato francese stasera, ma siccome ieri erano già 5.400 casi, oggi saranno ampiamente sopra i 6.000 qualcosa. La Spagna viaggia verso i 10.000, la Germania è arrivata a 6.700 casi e seguono esattamente di una settimana, 8 giorni di distanza l'Italia. Che cosa l'ha sorpresa di più? E questo è il fatto, che questa non trascuranza in praticamente dappertutto al nord delle Alpi, cioè il non vedere che c'era un'evoluzione, come diceva prima, che seguiva esattamente quella italiana, che bisogna prendere le misure prima e non dopo. Ma è molto strano, tutto il sistema tedesco si è rivelato veramente molto molto faraginoso, restio a prendere delle misure incisive, e adesso devono pagare il prezzo. Lei si attende che Macron questa sera dia un ulteriore giro di vite? Deve, se non fa oggi lo deve fare domani, per cui hanno poca scelta, e più tardi lo fanno più alto sarà il prezzo, più incisive dovranno essere le misure, più alto sarà anche il danno economico. La preoccupa di più la mancanza di, per concludere Gross, di così, coordinamento tra paesi europei e anche di coordinamento sulle politiche economiche, o una banca centrale europea che ha dato una pessima figura, una pessima prova di sé? Ma io direi questa Gasti Lagarde è veramente, come dire, eccezionale. Come cavolo ha fatto? E secondo me non riflette la BCE, perché per fortuna la BCE conta il presidente, ma alla fine le decisioni vengono prese a maggioranza dai governatori. Io sono certo che lei parlava, non so, ha fatto una gaffe che non rifletteva l'opinione di quasi nessuno, per cui questo secondo me sarà passaggero. Rimane che il fatto che per il momento in Unione Europea tutti vanno per conto suo, anche per quanto riguarda non solamente economico, ma quanto riguarda queste misure sanitarie, e su questo secondo me von der Leyen avrebbe dovuto agire molto di più. Sì, allora ha fatto un bel appello, però si vedrebbero misure straordinarie anche a livello europeo. Allora mettiamola così, Gross, nel salutarla, lei dice la BCE è meglio della GAF, della Lagarde. Ecco, posso dire che però prima lei dice la BCE è meglio del suo presidente, fino a poco fa era meglio il presidente della BCE, perché senza Draghi va bene, questa ce l'avevo qua. Grazie anche a Daniel Gross in collegamento con noi da Bruxelles, dove dirige il Centro Europeo per gli Studi Politici. Andiamo sul traffico. Focus Economia. Allora, qualcuno mi dice: ma non è che Boris Johnson voglia risolvere il problema della curva pensionistica, ragazzi? Non scherziamo. Cioè, ma cosa sarebbe successo in un paese civile come l'Italia se il Presidente del Consiglio avesse annunciato: bisogna iniziare a considerare che staremo con i nostri cari anziani un po' meno? Ma gli avrebbero assaltato Palazzo Chigi. Ma c'è un elemento di irrazionalità che abbiamo sperimentato anche noi, che venivamo, insomma, qui a Milano e Lombardia dal 25 che le scuole sono chiuse. Eppure questo non ha impedito, nonostante la città mezza deserta, così, gli aperitivi, gli apecena, che prima o poi gli sparo, e le code negli impianti sciistici, semplicemente perché si riteneva che il caso fosse solo Codogno, Lodigiano, forse la Lombardia, qualche cosa in Veneto, in Emilia. Poi allora, Alessandro Platerotti, editorialista del Sole 24 Ore, buonasera Alessandro. Buonasera a tutti voi. Partiamo dalle borse intanto, come commento. Qua la Federal Reserve ha annunciato poco fa un'asta non prevista di pronti e controtermine per 500 miliardi, eppure Wall Street continua a peggiorare, adesso perde il 9% il Dow Jones. Le borse europee non hanno chiuso sui minimi, ma insomma, meno 6 Milano, meno 5,70 Parigi, meno 5,30 Francoforte, Londra meno 5. Che cos'è che sta mancando, diciamo, alle borse per dire: ragazzi, qui non vi preoccupate che adesso i vari paesi metteranno in piedi delle misure tali che, insomma, l'economia non tracollerà? Allora, io intanto partiamo da una certezza: questo non è panic selling, un vendita da panico, ma una logica reazione che gestisce il denaro al buio che abbiamo tutti noi e loro su che cosa succederà. Io posso dire, a mio avviso possiamo dire in sintesi che cosa sta succedendo. È una reazione a un piano di spesa e soprattutto di sostegno alle economie che il mercato non crede per dimensioni, obiettivi e coordinamento. I flussi di capitale, l'economia cresce se c'è libera circolazione di denaro e di persone. Quando cade questo elemento fondamentale, cioè il business che può circolare, e si trova in una situazione in cui ogni paese fa quello che vuole, quindi le risposte verticali, è ovvio che si crea una strozzatura. Il denaro non sta circolando perché le banche non si fidano l'una dell'altra e perché chi difende e gestisce i nostri risparmi, perché spesso parliamo di speculazione, ma ricordiamoci che sono poi fondi di pensione, fondi di investimento che hanno risparmi delle famiglie, lo stanno difendendo da che cosa? Dall'incertezza su durata, trattamenti in generale pronti e rapidi che possono avere sul mercato e soprattutto dalle differenze di passo di economia che ci saranno anche in questa vicenda. Allora, quando un paese mette 400 miliardi di prestiti per le proprie imprese, come ha fatto la Germania, addirittura credo che nell'arco dei prossimi giorni sarà varata una nuova legge in Germania che allenta totalmente la legge fallimentare. Questa è un'altra cosa che da noi non è stata assolutamente neanche pensata, purtroppo, ma dobbiamo pensarci, perché la legge stabilisce anche non delle scadenze sui pagamenti solo delle tasse, ma anche sulle ristrutturazioni aziendali, gli stati di crisi annullati. Non solo, gran parte delle norme che riguardano i pagamenti contributivi previdenziali nei confronti dello Stato sono stati spostati di un anno, non di 15 giorni come abbiamo fatto noi con il decreto. Uh-huh. Allora ecco lì che in una situazione di questo genere l'Italia paga anche più degli altri. Perché? Perché ne viene percepita la fragilità economica. Tenete presente che con la situazione di oggi la possibilità addirittura di una bancarotta italiana è salita al 4%. Questo non è poco, no, è altissimo sotto il profilo di mercato, perché il mercato sta apprezzando non solo un rischio di tracollo delle banche, diciamolo pure, chi è più esposto in questa storia adesso sono le banche, il centro di distribuzione del denaro, per questo cadono più degli altri, ma soprattutto quello di vedere che hai una BCE che prima dice una cosa e poi per tappare il buco dice un'altra. Le banche centrali che con i tassi a zero, ormai con i tassi a zero, non sanno più che è caduto il bluff, cioè il bluff, non chiamiamolo bluff, ma non si può spingere il mercato sotto zero, perché zero era effettivamente un livello che non poteva essere passato per il sistema finanziario. E poi un'ultima cosa, attenzione a ricordare dov'è la realtà e dov'è il mito. Noi tutti gli anni, Sebastiano, lo sai pure tu, facciamo trasmissioni per dire che la propensione degli italiani all'investimento del risparmio è la più bassa d'Europa, che solo il 10% degli italiani ha azioni, te lo ricordi, quelle sono, sì, certo, le statistiche ufficiali. Dopodiché stiamo vivendo, somatizzando il crollo delle borse come se fosse di tutti noi. No, noi dobbiamo preoccuparci del lavoro, della difesa delle imprese. Questo credo che sia il messaggio più grosso che ci sta dando il mercato finanziario in questo momento. E torniamo sempre lì, Alessandro, poi, che non essendo una crisi finanziaria, come tu dicevi, le borse, le banche centrali, tanto i tassi li hanno a zero, di più non possono fare. Devono essere più coordinate e dare qualche messaggio in più, però questa è la volta. Non solo, questa volta chiedono leadership politica. Leadership politica, sono d'accordo. Un'altra cosa che dobbiamo tenere presente, perché non c'è più una leadership delle banche centrali. Bravo. Perché, come vedete, il coordinamento che è stato annunciato in quel comunicato diffuso questa notte e stamattina, in realtà che cosa ha prodotto? Che lo yen è andato alle stelle, il franco svizzero ha ricominciato a correre più veloce di quanto ha fatto nel 2008-2009, e ricordatevi come finì, che la Svizzera a un certo punto impose un tetto al prezzo che poteva avere il cambio con il franco svizzero, provocando un altro terremoto. Quindi aspettiamoci che cosa adesso? Che ci saranno poi un sovrapporsi di provvedimenti monetari. Aumenteranno la confusione. Allora, ecco, che cosa fare? Chiudere le borse? Io dico solo questo. Oggi, quando è stata sospesa lo Standard & Poor's, il trading block, no? Per 15 minuti. Alla riapertura ha perso il 10%. No, ma è chiaro. Quello che tu stai dicendo è che, appunto, oltre a non avere molto fuoco, le banche centrali, serve un coordinamento di leadership politica. Cioè, la crisi del 2008 fu risolta, ricorderete, non tanto da Bush figlio, che se ne stava andando via, ma fu risolta dall'intervento massiccio della Federal Reserve, e poi arrivò finalmente anche la BCE, nonostante le resistenze tedesche, ma lì si poteva risolvere con le banche centrali e bastava il coordinamento delle banche centrali. Qui, per le dimensioni, le caratteristiche di questa crisi, non ti bastano le banche centrali, vorresti un coordinamento, ma abbiamo Boris il pazzo che dice io faccio saltare tutti i vecchietti, poi c'è Trump che dice è solo un'influenza, poi intanto stanno per dichiarare, hanno già dichiarato alcuni stati il coprifuoco, e quindi i francesi e i tedeschi che ci pigliavano in giro, ma forse gli italiani, non capendo che da noi si era sviluppata nei centri d'eccellenza della sanità, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, e se non reggevano quelli non reggono neanche in Francia e neanche in Germania. Grazie Alessandro Praterotti, andiamo su GR24. Focus Economia. Sette minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, le borse, dicevamo prima con Praterotti, insomma, il calo non è stato sui minimi, ma anche oggi 6 punti, meno 6 a Milano, meno 6 a Parigi, meno 5 e mezzo a Francoforte, meno 4 a Londra. L'America continua a essere molto molto negativa, nonostante la Federal Reserve e i pronti controtermini da 500 miliardi che ha annunciato per iniettare liquidità. L'America perde il 9% in questo momento, però è iniziata la conferenza stampa di Borrelli. A ribasso, anche se non sono pervenuti i dati di Puglia e della provincia autonoma di Trento, ma il trend, come avete visto anche dalle comunicazioni della regione Lombardia, è un trend in ribasso, registriamo questo dato. Il totale attuale dei positivi quindi è pari a 23.073, di questi 10.197 sono in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi, 1.851 in terapia intensiva, quindi sono sempre il 10% dei contagiati positivi, e registriamo purtroppo anche oggi 349 deceduti. Ad oggi, nella giornata di oggi, sono stati disposti i trasferimenti attraverso la CROSS di 7 pazienti in più rispetto a ieri, quindi il totale dei pazienti trasferiti con la CROSS sono 47. Va segnalato anche, va ringraziata l'ONG degli evangelici americani Samaritan's Pulse, che hanno donato al nostro paese e Protezione Civile, in accordo con la Regione Lombardia, hanno deciso di installarla a Cremona, una struttura ospedaliera mobile composta di 60 letti di degenza e 8 attrezzati per la terapia intensiva. Questa ONG installerà e gestirà questa struttura per alcuni mesi, quindi la vogliamo ringraziare per questo gesto di generosità nei confronti del nostro paese. Per quanto riguarda le forze in campo, vi voglio comunicare che cresce e voglio ringraziare anche loro in misura cospicua, quasi giorno per giorno, il numero dei nostri volontari, delle nostre volontarie impiegate nelle attività di gestione dell'emergenza. Siamo a oltre 4.000 volontari, 700 in più rispetto a ieri, che si aggiungono ai sanitari, che voglio ringraziare insieme con le forze dell'ordine, le forze armate e tutti coloro i quali sono impiegati per fronteggiare l'emergenza. Altro dato che cresce è quello delle tende destinate a strutture per il pre-triage. Questo dato incrementa di 52 tende, siamo arrivati a 600 tende per il pre-triage e 122 tende pre-triage nelle Allora ritorno, riprendo la linea. Dunque Borrelli ha detto ci sono 414 guariti in più di ieri, purtroppo ci sono anche 349 morti in più di ieri e quindi il che porta, ahimè, il numero di vittime a superare il livello delle 2158 da quando è iniziato il coronavirus, 349 in più in un giorno. I malati quindi sono, i contagiati in tutto sono 27.980, comprese vittime e guariti, e quelli attuali sono 23.000, con un aumento rispetto a domenica di 2.470. Ora attenzione, perché siccome l'aumento da sabato su domenica era solo 2.850, Borrelli ha detto 2.470 sembrerebbero indicare un rallentamento dell'aumento. Il problema è che mancano ancora i contagiati in Puglia e in Trentino. E quindi sì, magari il rallentamento viene confermato, però questi 400 casi in meno come incremento, ripeto, più 2.850 da sabato a domenica, più 2.470 da domenica a oggi, questi 400 in meno come incremento potrebbero essere ridotti dall'arrivo dei dati poi sui nuovi positivi in Puglia e Trentino. Ok, adesso vedremo, perché è chiaro che tutti stiamo qui a vedere quando inizierà a invertirsi questa curva, ossia continueranno a crescere i contagiati ma non con la stessa velocità di prima, e quindi inizierà la curva a appiattirsi, a diventare una curva non, diciamo, diagonale ma sempre più gaussiana, come speriamo avvenga prima o poi, cioè che faccia un plateau e poi inizi anche possibilmente a discendere. E quindi però bisogna aspettare Puglia e Trentino su questo. Allora, il via libera invece del Consiglio dei Ministri al Cura Italia. 25 miliardi nel decreto per aiutare famiglie aziende e lavoratori in difficoltà. Ci sono 10 miliardi a sostegno dei lavoratori con ammortizzatori sociali estesi a tutti, quindi cassa integrazione in deroga anche per chi è un dipendente. Gli autonomi avranno un assegno per il mese di marzo di 600 euro e poi slittamento delle scadenze fiscali di IVA e IRPEF. 3 miliardi e 300 milioni serviranno proprio alla cassa integrazione in deroga per tutti. I permessi della legge 104 saranno allungati estesi a 12 giorni, 500 milioni stanziati per il periodo marzo-aprile, e quindi l'intervento poi su i licenziamenti, cioè, e verranno congelati tutti, le procedure, quelle che partono dal 23 febbraio, da quando è scoppiata l'emergenza sanitaria, se c'era una procedura di licenziamento viene congelata. Così come i lavoratori in quarantena possono, il computo del periodo di astensione è malattia, non è altro. Non capisco perché mi debba insultare uno, 2158 morti, è esattamente quello che ho detto poco fa, citando il dato di Borrelli, perché appunto 2158 le vittime in tutto. Comunque andiamo avanti col provvedimento. Poi ci sono 1.400.000.000 per la spesa per la cassa integrazione ordinaria e l'assegno ordinario dei fondi di solidarietà, più risorse agli enti locali, la possibilità di utilizzare gli avanzi di bilancio per finanziare le spese correnti, vale circa 600 milioni, la sospensione dei mutui e la possibilità di utilizzare gli risparmi per il rilancio dell'economia, si liberano tra queste due misure circa appunto 600 milioni. Il reddito di cittadinanza viene dato senza condizioni, quindi sospende per due mesi le misure di condizionalità previste, quando l'immediata disponibilità al lavoro, l'impiego in attività di servizio alla comunità, per evitare anche lo spostamento delle persone. Oh, c'è una notizia che adesso però voglio leggere. Borrelli ha appena chiarito che è vero che mancano ancora i dati della Puglia e della provincia autonoma di Trento, però la Lombardia mostra un trend in ribasso, attenzione però ai facili entusiasmi, vuol dire che continuano a crescere i contagiati ma più lentamente di prima, e questa, visto che la Lombardia ha iniziato per prima anche il contenimento, è molto molto importante. Allora guardate che questi 25 miliardi, e saluto e ringrazio per averci raggiunto in collegamento Gianni Trovati del Sole 24 Ore. Gianni, buonasera. Buonasera a voi. Non vanno confrontati con i 500 miliardi tedeschi, si è creato un po' di casino su questo. Allora, la Germania ha detto che apre fino a 500 miliardi di prestiti, e quindi sono prestiti. In questo caso l'Italia ha messo 25 miliardi di deficit, cioè non fa prestiti, non li rivuole indietro. I soldi che vengono messi per la cassa integrazione in deroga, Gianni, o per l'assegno da 600 euro per le famiglie, congedo parentale 15 giorni a 15 giorni, voucher babysitter da 600 euro, vale 1.600.000.000, solo se il coniuge lavora e il figlio minore di 12 anni, meno che non sia un figlio disabile e non ci siano disabilità in casa, e poi 3.500.000.000 sulla sanità e protezione civile. Comunque Gianni, partendo dall'impianto complessivo, adesso poi arriverò alle varie voci, questi sono 25 miliardi di soldi diretti, ha detto Conte, l'abbiamo fatto sentire prima, dovrebbero sviluppare 350 miliardi complessivi. Chiariamo questo passaggio. Sì, questa stima è stata fatta per appunto facilitare, diciamo così, il confronto con i numeri della Germania. Che cosa vuol dire? Sia la Germania sia l'Italia ha attivato, tra i vari provvedimenti d'Italia, un sistema di garanzie statali per i prestiti e le misure della liquidità alle imprese. Questo sistema di garanzia funziona con il classico effetto leva, e di conseguenza l'attivazione di una garanzia per uno permette l'attivazione di prestiti per x volte uno a seconda dell'effetto leva. Questo determina una stima che per l'Italia, secondo il governo, intorno ai 340-350 miliardi, che sono una cifra, diciamo così, paragonabile ai 550 miliardi della Germania, perché il PIL della Germania è molto più grande di quello dell'Italia, quindi il rapporto al PIL più o meno ci siamo. Sia nel caso italiano sia nel caso tedesco sono, come dire, cifre stimate di un possibile impatto economico dell'effetto leva prestato dalle garanzie statali. L'Italia però ha fatto di più, appunto, ha messo in campo. Io sento molto male Gianni Trovati, allora adesso un attimo blocchiamo, andiamo sul traffico, sistemiamo il collegamento, io non so cosa stia capitando in questo periodo con i collegamenti con Gianni Trovati, però è chiaro quello che ha appena detto, cioè l'Italia ha fatto più della Germania in questo momento, e la Germania ha semplicemente detto ci sono 500 miliardi che verranno attivati con l'effetto moltiplicatore di prestiti alle imprese. Noi però, poi come chiariremo dopo, abbiamo messo in campo anche misure dirette, non abbiamo solo detto che tutto un insieme di moratori possono, come effetto moltiplicatore, attivare 350 miliardi, che sono esattamente nel rapporto con la Germania i 500 miliardi tedeschi, ma abbiamo fatto anche interventi diretti. Ne parliamo dopo il traffico. One Express, il pallet espresso. Vi presenta Focus Economia. Allora, no, sospiro perché qualcuno mi scrive: uno schifo di manovra che non dà nulla agli autonomi, ma sposta solo i pagamenti. Allora, non è vero, perché i lavoratori autonomi avranno 600 euro. Lei mi dice: ma 600 euro cosa sono? Ho capito, andiamo a vedere quanto vengono pagati anche alcuni lavoratori autonomi. Dopodiché, è solo per il mese di marzo. Gualtieri ha chiarito che vi sarà un nuovo decreto su aprile. È vero che molti pagamenti vengono posticipati, ed ecco perché continuiamo a dire: superata la fase emergenziale in cui tu non fai uscire i soldi dalle tasche degli italiani, poi ci sarà un'altra fase in cui dovrai mettere i soldi nelle tasche degli italiani. Abbiamo ripreso Gianni Trovati. Gianni, venendo alle varie misure, quelle del mondo del lavoro le ricordavo, sentiamo anche da questo punto di vista il ministro Gualtieri dire: ci sono 10 miliardi per i lavoratori, nessuno perderà il posto, e poi anche spiegare bene il sostegno alla liquidità, la sospensione di rate per prestiti e mutui. Abbiamo un capitolo molto corposo che vale più di 10 miliardi di sostegno all'occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito, affinché nessuno perda il posto di lavoro a causa del coronavirus, come poi illustrerà più nel dettaglio la ministra Catalfo. Abbiamo esteso, come avevamo annunciato, gli ammortizzatori sociali a tutte le tipologie di lavoratori dipendenti e copriamo tutti i lavoratori autonomi, stagionali e altre forme di lavoro con un assegno di 600 euro per il mese di marzo. Inoltre estendiamo il congedo parentale e anche offriamo un voucher babysitter per i genitori. Abbiamo anche un sostegno aggiuntivo al reddito per quei lavoratori che andranno a lavorare nei posti di lavoro, con una riduzione aggiuntiva del cuneo fiscale per loro, quindi un aumento delle risorse in busta paga per questo mese. Abbiamo nel terzo capitolo una fortissima iniezione di liquidità nel sistema del credito, che può mobilitare circa, come ha anticipato il Presidente del Consiglio, 340 miliardi di finanziamenti all'economia reale, con la sospensione delle rate di prestiti e mutui tramite fondi e garanzie pubbliche al credito, sia col potenziamento del fondo di garanzia, sia col meccanismo del fondo Gasparini per la sospensione delle rate dei mutui dei lavoratori autonomi o di chi ha perso il lavoro, sia con una garanzia pubblica che può consentire al sistema bancario di sospendere le rate dei prestiti o di estendere i finanziamenti. Quindi è un pacchetto molto corposo di sostegno alla liquidità. Allora, Gianni Trovati, poi adesso arriviamo alla parte ancora sulle famiglie. Avevo chiarito che il congedo parentale può avvenire appunto se uno dei due lavora, però mi chiedono gli ascoltatori due cose. Dovrà esserci per forza una seconda fase di mettere i soldi nelle tasche, non solo non farli tirare fuori, ma c'è molta preoccupazione in giro anche sull'ipotesi golden share, o comunque e cioè l'idea che la borsa, crollando così, possa far rendere molto scalabili alcuni grandi gruppi italiani da mani straniere. Golden rule, se ne è parlato oggi? Allora, sulla prima domanda, sì, ci vorrà un secondo provvedimento. Il tema è dove si trovano i soldi per farlo, e questo tema, perché il primo provvedimento esaurisce il deficit aggiuntivo appena autorizzato dal Parlamento non è un problema di autorizzazione del Parlamento, è un problema proprio di, come dire, possibilità effettiva poi di trovare altre risorse sui mercati con emissioni di titoli di Stato. Si vedrà se l'Europa ci darà una mano, cosa che al momento sembra in realtà essere in dubbio. Sul secondo punto, sì, è un tema all'attenzione del governo, c'è una norma che sospende tutti i procedimenti amministrativi per l'emergenza dentro al decreto approvato oggi, e dietro a questa, come dire, nozione burocratica si potrebbe nascondere anche un effetto di sospensione delle procedure che intrecciano l'autorizzazione o la possibilità, il diniego, il via libera all'acquisto di aziende strategiche. È un tema all'attenzione del governo perché la borsa sta continuando a crollare e naturalmente tutti i prezzi di borsa sono ormai fortemente a saldo. Allora, la parte che riguarda la sanità e protezione civile sono 3,5 miliardi dedicati a sanità e protezione civile. Poi c'è la parte che riguarda le famiglie. Allora, il congedo parentale fino a un massimo di 15 giorni può essere chiesto dalle famiglie dove c'è un figlio minore di 12 anni, oppure l'età non è importante se il figlio è disabile. Però se il coniuge chiaramente lavora, fino a un massimo di 15 giorni con indennità pari al 50% della retribuzione e la copertura della contribuzione previdenziale. La funzione di congedo è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia un altro genitore beneficiario di questi strumenti, cioè se c'è un solo genitore che lavora. Sospesi anche i contributi a colf e badanti, diversamente in scadenza dal 23 febbraio al 31 maggio, dovuti dai datori del lavoro domestico, andranno fatti entro il 10 giugno senza sanzioni e interessi. E sentiamo su questo passaggio il ministro Catalfo, perché la Catalfo ha illustrato la parte che riguarda più, insomma, le famiglie e non tanto i lavoratori, ma tutti noi quando siamo in famiglie. 1,2 miliardi per il congedo familiare, il bonus babysitter, 3 miliardi per gli autonomi e liberi professionisti. Abbiamo inserito all'interno del decreto un importante stanziamento per il sostegno ai lavoratori e alle famiglie italiane di circa 10 miliardi di euro. Gli interventi saranno sia di ammortizzatori sociali come il fondo di integrazione salariale, che viene incrementato di 1,3 miliardi di euro, e la cassa in deroga, quindi per tutti i datori di lavoro anche con un solo dipendente che ne potranno usufruire, con uno stanziamento di 3,3 miliardi di euro. C'è una misura importante per le famiglie, il congedo parentale, che sarà un congedo parentale speciale di cui le famiglie potranno usufruire per 15 giorni e che potrà prevedere in alternativa la possibilità di utilizzare un bonus babysitter di 600 euro. Lo stanziamento è di 1,2 miliardi e con ulteriori risorse per tutto il personale del Servizio Sanitario Nazionale, che avrà un bonus babysitter speciale proprio per aiutarli in questo periodo di forte impegno che il personale sanitario sta effettuando. Allarghiamo anche la possibilità di usufruire dei permessi della legge 104, che passeranno per il mese di marzo ed aprile cumulativamente non più di 3 giorni, ma passeranno a 12 giorni con uno stanziamento di 500 milioni di euro. Per gli autonomi e i liberi professionisti abbiamo nel primo decreto, quindi questo di marzo, il decreto marzo, abbiamo stanziato circa 3 miliardi di euro a tutela del periodo appunto di inattività che si sono prestati ad affrontare. E già ritrovati, c'è una domanda che mi pongono molti ascoltatori: la sospensione sui mutui, ma per chi paga l'affitto? Ecco, per chi paga l'affitto è un problema, nel senso che c'è una norma di specifica per quanto riguarda gli affitti dei locali commerciali, cioè ristoranti, bar, negozi che essendo chiusi non hanno introiti e quindi non hanno la possibilità di pagare l'affitto, c'è una norma anche di parziale copertura per il proprietario. Penso si rivolgesse ai privati che pagano l'affitto. Per i privati no, non c'è una norma di copertura e questo è un problema, ma i privati ovviamente sono una platea sternata e molto più ampia di quella come dire, interessata dalla norma. C'è un problema di copertura. Come c'è un problema di copertura sulle bollette, infatti le bollette non vengono sospese. Non vengono sospese, l'altra domanda che avevo per te. Nessuna sospensione per le bollette. Grazie anche a Gianni Trovati. Adesso vi lascio tutta la nostra informazione. Vedo moltissime domande. Domani torneremo anche su vari dettagli. Immagino che alcune cose emergeranno ancora con altre dichiarazioni del governo. Borrelli ha detto che a breve si avvierà la produzione nazionale di mascherine. E poco fa Fontana ha detto che con i soldi anche dei privati si è pronti a costruire il nuovo ospedale da 500 letti in terapia. Ci risentiamo domani dalle 17 in poi.